giorno. Anch'io mi sono svegliata adesso. Che fai? Stai già andando via? No, perché? Ti prego, resta con me. Rimani con me. Ho ancora tante cose da dire. Ti prego, resta con me. Rimani con me. Almeno un altro po', per favore. Avvicinati, parla al mio piano. Di me fidati, non voglio che gli altri sappiano. Perché noi supponiamo, anche se in fondo sbagliare umano. Anche se stai sul fondo, vedrai che prima o poi ci rincontriamo. Col tempo ti sconforti, tra incubi la notte ti avvolge. Giorni che sembreranno anni, e anni che sembreranno giorni. Momenti dimenticabili, momenti che non ricordi. Ma siamo solo io e te qui, su questo letto. Cuffie, la tua testa sul mio petto. E io che ti aspetto. Ti prego, resta con me. Rimani con me. Ho ancora tante cose da dire. Ti prego, resta con me. Rimani con me. Almeno un altro po'.